noi saremo là soli ma insieme. Celeste e terra.

che il tempo ci ritrovò. Lui aprì la mano e poi mi toccò il naso ed io sorrisi. Thank you. tuo sorriso nell'andartene. Aspetterò anche un ritorno impossibile, sembra possibile per me. Ti aspetterò. Sarò per te l'amico